idee scintillanti e forme da comprare, di fronte ad uno sguardo ansioso di agguantare stili vuoti insonni in un vortice di noia che rincorrono di fretta una gioia mai trovata. Sopraffatti da un guscio inanimato di cavi led e luci e frasi disconnesse, e trovi tanta gente imbranata nella mare di sogni e la sua vita da un'esistenza mai vissuta. Già fatto, organizzato da pochi per la tristezza da tanti. Corri, corri, corri senza meta capire, in uno sforzo di scatto, in una gioia indiretta. Corri, corri, corri in un mondo affrettato, senza volto voltare, pietà da provare. Corri, corri, corri senza vie trovate, distratto da una corsa mascherata di gioia. Senza grande povertà, smarito nelle strade con dei lassi nascenti, senza pensare alla tua felicità. Sold.